quando i baci miei tu rimpiangerai, puoi tornar scerì a Monte Carlo. Questo nostro amore puoi salvare ancora, o scerì con me a Monte Carlo. Rivedrai lo stesso mare e la luna in ciel per noi brillare. Torna qui da me, a tutto aspetta te, è un eterno sogno Monte Carlo. No, non dimenticare questo azzurro mare, oh, oh, Sherry, ritorna a Monte Carlo. Dopo l'imbrunì, bella da impazzire, splenderà di luci Monte Carlo. Un romantico passato, se ritorni non andrà perduto. Non tardare più, manchi solo tu, o Sherry, ritorna a Monte Carlo. Passato, se ritorni non andrà perduto. Non tardare più, manchi solo tu, o Sherry, ritorna a Monte Carlo. O Sherry, ritorna a Monte Carlo.